the way. Desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie. Improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi. Tutti i mammiferi di questo pianeta, distinto, sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. E sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione estesa. Un cancro per questo pianeta. Siete una piaga. E noi siamo la cura. Va bene, no? Allora va bene, sì, sì, certo, va bene. Arrivederla. Cercai tante volte di telefonarle, ma poi non veniva più neanche al telefono. Le mandai dei fiori, ma me le riportavano tutti a casa. L'odore dei fiori mi dava la nausea e il mal di testa mi torturava. Mi pareva di avere il cancro allo stomaco. Non dovevo lamentarmi, però. La salute è una cosa che dipende da come ti senti. Più pensi di sentirti male, e più stai male. finisce sempre così, con la morte. Prima però c'è stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo. Bla, bla, bla, bla. Altrove c'è l'altrove. Io non mi occupo dell'altrove. Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo, è solo un trucco. Sì, è solo un trucco. Thank you. Mio padre... Mio padre è morto partigiano a 18 anni, fucilato nel nord, manco so dove. Perciò non l'ho mai visto. So com'era da quello che mia madre mi diceva. Giocava nella Roma primavera. Ma l'altra notte, mentre che dormivo, sarà stato... ma 2 o 3 notti fa, mi è parso da svegliarmi all'improvviso e di vederlo. Come fosse vero. Sulla faccia c'aveva un gran sorriso che spanneva una luce, come un cielo. Ammazza come dormi, m'ha strillato. Era proprio lui, ne so sicuro, lo stesso della foto che mia madre teneva sul commò, dietro a una frunna di Parma tutta secca. Benedetta, un ragazzino che ride in camiciola, col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome io sognavo i sogni miei, per la sorpresa gli ho chiesto: ma chi sei? So tuo padre, m'ha detto lui, ridendo. Forse che ti vergogni alla tua età di chiamarmi col nome di papà? No, no, papà, ti chiamo come hai detto, mi fa ride vedette al naturale. Scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo male. Non so un signore, ma un po' me ci avvicino, 32 anni, davanti c'ho una vita. Ancora non è chiusa la partita, lo sai? Da quando mamma si è sposata con mio padre, che invece è mio padrino, credo 7 anni dopo la tua morte. E qui l'ho visto che strigneva l'occhi, come quando c'è il sole troppo forte. Scusa papà, credevo lo sapessi. Ma lui ridendo, senza farci caso, mi ha risposto spavardo, spensierato. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come collassato. Quando giocavo al calcio. E mica mi stancavo. Giocavo con tua madre. E l'abbracciavo. Giocavo con la vita. E non volevo. Con i nazisti però non ci giocavo, perché io lottavo. Poi mi ha toccato i piedi dentro al letto, che mi ha fatto venire quasi un infarto. Mi ha fatto un gesto come a dire: sei arto. Senti, mi dice, mo che sei cresciuto, se non t'offendi, prima d'andà via, mi sai di che ne hai fatto della vita che t'ho data, giocando con la mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato? Sto gran paese l'avete trasformato? L'uomo nuovo è nato o non è nato? In qualche modo ci avete vendicato? E rideva, con l'occhio, coi capelli, sembrava quasi lo facesse apposta. Mi sfotteva, capito, quel puzzone, rideva... e aspettava la risposta. Ma tu che vuoi con tutte queste domande? Mo perché sei mio padre, t'approfitti. Tu m'hai da rispettare. Io so più grande. Vabbè che adesso accampi i diritti perché sei partigiano, fucilato, ma se mi fai svegliare io da rispondo. Basta solo che arrivi io fiato. Certo che la vita è migliorata. Abbiamo pure fatto l'avanzata. Travolgente, hanno scritto sui giornali. Meglio così, mi fa... Si vede che è servito, vedi, quando che m'hanno fucilato, non ho strillato le frasi dell'eroe, pensavo a voi, che sullo stesso campo avreste certo vinto la partita, pure che io perdevo il primo tempo. Ma un momento, papà, te spiego meglio, non è che avemo proprio già risolto, nella misura in cui ci sta il risvolto... E allora quel ragazzo di mio padre che stava a pettinarsi nello specchio si rivolta, mi fissa e mi domanda: ma insomma adesso il popolo comanda. Qui sono zompato subito sul letto, con una mano tenevo la mutanna, con l'altra cercavo di toccarlo ma non potevo perché... E allora gli ho parlato, perché mi ha presa come... una malinconia, non volevo che se ne andasse via prima di sapere bene com'è stato. Sei ragazzo, papà, come ti spiego, non puoi capire com'è che cambia il mondo, ci vuole tempo, il tempo se li magna, i sogni nostri. Io sai che faccio? Aspetto. Tutto quello che viene, io l'accetto. Siamo contenti se la Roma segna, li compagni so tanti, i sordi pochi e non ci sta più tempo per i giochi. Sempre quelli ti strappano le penne. Ma tu non puoi capire, sei minorenne. Se eri vivo ti davano 30 anni, meglio che torni, papà, meglio che torni da dove sei venuto, perché quelli che t'hanno fucilato, proprio quelli, qui te fanno morire tutti i giorni. Lascia perdere, papà, qui non è aria, siamo cresciuti. Non siamo più bambini. Torna a giocare con altri ragazzini che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo... seri. E non giochiamo più. A sto punto mio padre si è stufato, ha fatto de spallucce, che saluto. Si è rimessa in saccoccia la sua gloria e voltate le spalle se n'è andato, ripetendo nel vento la sua storia. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come mollassato. Quando giocavo, giocavo al calcio. E mica mi stancavo. Giocavo con tua madre e l'abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Con i nazisti però non ci giocavo, perché io lottavo.